Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera a tutti e benvenuti alle buonanotte di allineamenti, qui è Gas che vi parla e siamo su Ciao Radio Como, che ringraziamo come sempre di ospitare questo programma e questa associazione, gruppo informale che siamo, che è Allineamenti, che ormai è più un programma in radio, ci siamo trasformati. E quindi, ma non ha smesso di fare quello che faceva prima, quindi cercare di leggere, cercare di condividere, cercare di passare dei messaggi, cercare di far pensare, cercare di stare insieme. E quindi vi invito come sempre a scriverci, a venire a leggerci qualcosa, se avete voglia, noi siamo qua. Io vi stavo leggendo questa settimana, che finisce con oggi, perché il racconto era proprio molto breve, di 10 pagine, Chiudiamo le scuole, di Giovanni Papini. E siamo partiti con questo ragionamento di diffidare degli edifici di grande superficie: prigioni, chiese, ospedali, parlamenti, caserme, manicomi, scuole, ministeri, conventi. E chi ne ha e chi ne metta? Perché? Perché le scuole servono a soddisfare i genitori che vogliono levarsi di casa dei figlioli che danno più noia. E poi i figlioli entrano a scuola e inizia la competizione con gli altri, inizia a pensare alla posizione, alla carriera. E i maestri hanno bisogno di mangiare, quindi vogliono lavorare, hanno bisogno di soldi. Poi i maestri hanno pure 3 mesi di vacanza. E i maestri poi possono annoiare, possono intimorire, possono sentirsi padroni impunemente di qualche vita di migliaia di giovani. E lo Stato ha sempre bisogno di impiegati, preferisce tirarseli su a suo modo e sceglierli con i certificati che lui emana, naturalmente. E poi ci sono i preti, i bidelli, i preparatori, gli assistenti, i librai, i cartolai. Ne abbiamo incontrati tantissimi. E invece l'uomo cosa avrebbe bisogno in questi anni di scuola? Avrebbe bisogno della libertà, di vivere la libertà, di rafforzare il suo corpo, conservare la salute, vivere l'aria aperta, non rovinarsi gli occhi, i polmoni, i nervi. Dovrebbe scoprire la sua personalità, imparare qualcosa veramente. Non recludersi quotidianamente. E quindi abbiamo finito chiedendo, implorando di lasciarci almeno la fanciullezza e la gioventù per goderci un po' di igienica anarchia. E io vi faccio ascoltare questa sera, prima di continuare e concludere, chiudiamo le scuole, una ragazza che dell'anarchia forse è un simbolo, che vi ho fatto scoprire settimana scorsa. La ragazza si chiama Tash, avete capito? Tash Sultana. Settimana scorsa vi ho fatto ascoltare il brano che l'ha resa famosissima e celebre, autoprodotto a casa sua. Continuiamo così, però questa volta è un video ufficiale e la canzone si chiama Cigarettes. Tash Sultana, che ha fatto l'anarchica eppure è tornata nella società. Vabbè, lasciamo andare, facciamo ascoltare lei, dai. Ciao. I'm L'unica scusa, non mai bastante, di tale lunghissimo incarceramento scolastico sarebbe la sua riconosciuta utilità per i futuri uomini. Ma su questo punto non c'è abbastanza concordia fra gli spiriti più illuminati. La scuola fa molto più male che bene ai cervelli in formazione. Insegna moltissime cose inutili, che poi bisogna disimparare per imparare molte altre da sé. Insegna moltissime cose false o discutibili, e ci vuole poi una bella fatica a liberarsene, e non tutti ci arrivano. Abito agli uomini a ritenere che tutta la sapienza del mondo consista nei libri stampati. Non insegna quasi mai ciò che un uomo dovrà fare effettivamente nella vita, per la quale occorre poi un faticoso e lungo noviziato autodidattico. Insegna. Pretende di insegnare quel che nessuno potrà mai insegnare. La pittura nelle accademie, il gusto nelle scuole di lettere, il pensiero nelle facoltà di filosofia, la pedagogia nei corsi normali, la musica nei conservatori. Insegna. Insegna male. Insegna male perché insegna tutte le stesse cose nello stesso modo e nella stessa quantità, non tenendo conto delle infinite diversità di ingegno, di razza, di provenienza sociale, di età, di bisogno. Non si può insegnare a più di uno. Non si impara qualcosa dagli altri che nelle conversazioni a due, dove colui che insegna si adatta alla natura dell'altro, rispiega, esemplifica, domanda, discute, non detta il suo verbo dall'alto. Quasi tutti gli uomini che hanno fatto qualcosa di nuovo nel mondo o non sono mai andati a scuola, o ne sono scappati presto, o sono stati cattivi scolari. I mediocri che arrivano nella vita a fare un'onorata e regolata carriera e magari raggiungere una certa fama sono stati spesso i primi della classe. La scuola non insegna precisamente quello di cui si ha bisogno. Appena passati gli esami e ottenuti i diplomi, bisogna rivomitare tutto quello che si è ingozzato in quei forzati banchetti e ricominciare da capo. Vorrei che i nostri dottorati della legge, per i quali la scuola è il tempio delle nuove generazioni e i manuali approvati sono i sacri testamenti della religione pedantesca, leggessero almeno una volta il saggio di Hazlitt sull'ignoranza delle persone istruite, che comincia così: la razza di gente che ha meno idee è formata da quelli che non sono altro che autori o lettori. È meglio non saper né leggere né scrivere che saper leggere e scrivere non essere capaci d'altro. E più giù: chiunque è passato per tutti i gradi regolari di un'educazione classica e non è diventato stupido può vantarsi d'averla scampata bella. Credo che pochissimi potrebbero, se sapessero giudicarsi da sé, vantarsi di una tal resistenza. E basta guardarsi un momento attorno e vedere quale sia la media intelligenza dei nostri impiegati, dirigenti, maestri, professionisti e governanti per convincersi che Hazlitt ha 100.000 ragioni. Se c'è ancora un po' di intelligenza nel mondo, bisogna cercarla fra gli autodidatti e fra gli analfabeti. La scuola è così essenzialmente antigeniale che non ristupidisce solamente gli scolari, ma anche i maestri. Ripeti e ripeti anni dopo anni le medesime cose, diventano assai più imbecilli e malmeabili di quel che fossero al principio, e non è dir poco. Poveri, aguzzini, acidi, annoiati, anchilosati, questa è una buona controlla, vuotati, seccati, angariati, scoraggiati, che muovono le loro membra ufficiali e governative soltanto quando si trama di avere qualche lira in più tutti i mesi. Si parla dell'educazione morale delle scuole? Gli unici risultati della convivenza tra maestro e scolare è questa: servilità apparente, ipocrisia dei secondi verso i primi, corruzione reciproca tra compagni e compagni. L'unico testo di sincerità nelle latrine è nella parete delle scuole. Oh. L'unico testo di sincerità nelle scuole è la parete delle latrine. Bisogna chiudere le scuole, quindi. Tutte le scuole, dalla prima all'ultima, asili e giardini di infanzia, collegi e convitti, scuole primarie e secondarie, ginnasi e licei, scuole tecniche e istituti tecnici, università e accademie, scuole di commercio, scuole di guerra, istituti superiori e scuole d'applicazione, politecniche e magisteri. Dappertutto. Dove un uomo pretende di insegnare ad altri uomini, bisogna chiudere bottega. Non bisogna dar retta a genitori in imbarazzo né a professori disoccupati né a librai in fallimento. Tutto si accomoderà, si accuoterà col tempo. Si troverà il modo di saper meglio in meno tempo, senza bisogno di sacrificare i più belli anni della vita sulle panche delle semiprigioni governative. Ci saranno più uomini intelligenti e più uomini geniali. La vita e la scienza andranno innanzi anche meglio. Ognuno se la caverà da sé e la civiltà non rallenterà neppure un secondo. Ci sarà più libertà, più salute, più gioia. L'anima umana. L'anima umana. L'anima umana innanzitutto. È la cosa più preziosa che ognuno di noi possegga. La vogliamo salvare almeno quando sta mettendo le ali? Daremo pensioni vitalizie a tutti i maestri, istruttori, prefetti, presidi, professori, liberi docenti e bidelli, purché lasciano andare i giovani fuori dalle loro fabbriche privilegiate di cretini di Stato. Ne abbiamo abbastanza dopo tanti secoli. Chi è contro la libertà e la gioventù lavora per l'imbecillità e per la morte. 1 giugno 1914. Giovanni Papini. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.